sei come l'onda che non sosta mai, e come l'onda vieni e te ne vai. Io son la riva ferma ad aspettare ogni capriccio del tuo strano amore. Un giorno m'ami, un giorno m'abbandoni, dovrei fuggirti e non ti so lasciare. Onda marina, amarti come t'ame una sfortuna, in ogni tua carezza c'è una spina, in ogni tuo sorriso c'è una pena. Onda marina, sei bella e incanti più di una sirena, ma chi ti fece fu una fata strana, ti diede tutto e non ti diede un cuore. Ma un'ora è come un giorno, e un giorno è come un anno, il tempo sembra eterno, se tu non sei con me. Onda marina, tu che sorridi sul mio cuore in pena, ricorda che la vita è a volte strana, un altro forse riderà di te. Un'ora è come un giorno, e un giorno è come un anno, il tempo sembra eterno, se tu non sei con me. Onda marina, tu che sorridi sul mio cuore in pena, ricorda che la vita è a volte strana, un altro forse riderà di te. E come il pescatore non abbandona il mar che gli dà vita e gli dà pena, così se non ti sento a me vicina, non vivo e cerco te.